Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Il tema della banda ultralarga è di attualità in questi mesi. Finalmente qualcosa si sta muovendo sia a livello di politica che degli operatori. Siamo in ritardo per quanto riguarda lo sviluppo di questa infrastruttura, lo sappiamo, ma questo ritardo sarebbe stato molto più grave se non fosse stato per il lavoro svolto a partire dal 2002-2003 dal consorzio GARRA, fondato da CRUI, CNR, ENEA, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione. Il consorzio GAR gestisce la rete italiana dell'università e della ricerca, di cui cura l'ampliamento e anche l'interconnessione con tutte le altre reti dell'istruzione e della ricerca internazionali e anche con la rete internet commerciale. Allora diamo il benvenuto a Sauro Longhi, che torna a trovarci questa sera, presidente del consorzio GAR. Buonasera Longhi. Buonasera a tutti voi. Senta Longhi, allora quanti intanto tra atenei, istituti di ricerca, sedi vari, insomma, voi connettete? Quasi 1000 tra università e centri di ricerca e anche alcune scuole interessate a questa alta connettività. E quando parliamo di questa banda ultralarga, quanto intendiamo? Dai 100 megabit in su, come funziona? Noi abbiamo una struttura diciamo diversificata. Tutte le università vengono collegate, i maggiori centri, con una capacità massima di 100 megabit al secondo. Però abbiamo una situazione, volevo in qualche modo evidenziarla, in cui negli ultimi anni abbiamo investito molto collegando 300 centri di ricerca al sud, potenziando in qualche modo le capacità di connettività e di storage distribuito del sud in particolare. Che addirittura, se ho capito bene, è messo un pelino meglio del nord una volta tanto dal punto di vista della... Sì. Nell'infrastruttura di rete e nell'infrastruttura appunto di calcolo di storage distribuito, al sud abbiamo ora un'infrastruttura a supporto alla ricerca sicuramente a livello superiore di quella che abbiamo nel centro-nord. In generale comunque gli atenei italiani, ecco, per quanto concerne l'accesso alla banda ultralarga, come sono messi? Ma anche perché voi li connettete bene, adesso, non so se sono tutti, ma quasi insomma. Ma sì, no, tutte le sedi universitarie sono connesse alla rete GAR, che tra l'altro è l'unica rete che poi realizza la connessione con la rete geante europea. Quindi siamo da questo punto di vista in Europa come tutte le altre università europee. Abbiamo con loro la possibilità di interscambiarci e distribuire in qualche modo i dati a livello europeo. Siamo messi bene da questo punto di vista, le università, i centri di ricerca non soffrono di questo ritardo. No, dobbiamo continuare però a mantenere e soprattutto a far crescere questa nostra rete, perché come lei può immaginare le tecnologie si evolvono, 100 megabit può essere il primo traguardo, ma dobbiamo anche pensare a connettività e quindi anche capacità superiore. Quindi dobbiamo continuare come consorzio GAR ad investire nel potenziamento delle infrastrutture. Ecco, ma queste condizioni di buona connettività poi si estendono diciamo all'ecosistema dell'innovazione che ormai orbita intorno a molti atenei o resta chiusa dentro l'ateneo questa connettività? Tutti gli atenei, come ormai è abbastanza noto, sono aperti diciamo agli interessi che il territorio esprime, quindi anche alla possibilità di incentivare quell'intraprendenza dei nostri giovani ricercatori, dei nostri giovani studenti. Quindi fanno un po' da pivot e... Sì, infatti nelle infrastrutture che molto spesso mettiamo a disposizione di questi giovani studenti ricercatori che vogliono intraprendere anche con azioni di spin-off o di start-up innovativa, molto spesso diciamo essere connessi, quindi in qualche modo utilizzare questi servizi che l'università ha messo a disposizione rende molto ma molto competitivi. Fa la differenza. Immagini di poter estendere il suo lavoro, diciamo gli obiettivi del GARA, a un'altra cerchia, no? Intorno a questo mondo della ricerca rispetto insomma al vostro campo di azione attuale. Verso quali soggetti si rivolgerebbe, per i quali appunto l'internet ultraveloce potrebbe rappresentare una grossa opportunità per la sua esperienza? Ieri abbiamo parlato per esempio di musei, no? Che possono essere collegati con una logica di questo genere. Che cos'altro? Ma anche tutti gli aspetti della formazione. Noi abbiamo alcune scuole molto virtuose e molto sensibili a queste tecnologie che hanno già chiesto e hanno già la connessione GARA, quindi anche la possibilità di interconnettersi con questa capacità. Altri settori possono essere anche nell'ambito dell'assistenza sanitaria, cioè la possibilità in qualche modo di rendere il servizio di salute e benessere anche più fruibile, più semplice. C'è la possibilità di gestire servizi sanitari anche al di fuori delle strutture. Questo c'è molta attenzione, credo che sì, la cosiddetta connected health, che sembra anche l'unico modo di tenere in piedi il sistema sanitario senza farlo esplodere i costi, insomma. Esatto, ma si può aumentare la qualità e abbassare i costi, è tutto da sviluppare, però c'è molta attenzione su questo settore. Devo dire che anche c'è una politica nazionale di incentivazione su questo, che è la politica che ha favorito l'emergere dei cluster tecnologici e che in qualche modo ha fatto intravedere delle strade, delle direzioni lungo cui far sviluppare il paese, e tra queste c'è salute e benessere, e quindi c'è questa la possibilità di usare le tecnologie proprio per migliorare il nostro stato di salute e di benessere, oltre che percepito anche vero. Grazie Sauro Longhi. Prego, grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.